il vizio. Comunicazione sul tema, dedicato per dovizia di cose a Ettore Petrolini. Vizio parente dello zio. Vizio. Gran visir. Io? Sì. Vizio. Vizi. Veni vidi vizi. Veni vidi vizi. Vizio. Non è vizio. Vizio. Non è vero. Vizio. Vizio. Stravizio con giudizio. Vizio. Pregiudizio. Zio. Condizio. Zio. Sine qua non. Zio. Vizio. Vizio. Vile. V.